24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci qui alle 6:35 minuti in punto. Siamo pronti, cari ascoltatori, a una nuova puntata di 24 mattino. C'è Miriam Lucchetti lì in redazione, c'è il nostro Filippo Aureggi in regia, in attesa che ritorni anche il nostro Alpino, che abbiamo rottamato, il verbo più giusto da utilizzare di questi tempi, la rottamazione, rottamare, anche se Renzi stesso, che l'ha inventato, Renzi, ieri ha detto è una frase bieca, volgare e truce, però mi ha fatto guadagnare titoli di giornali. Ecco, questo Matteo Renzi. Allora, vogliamo aprire il nostro bar lì, che qua si fa sempre più tardi, Offre come sempre Nicole Minetti, ma noi rilasciamo gli scontrini. Come sempre oggi sono felice di avere con noi come primi clienti della giornata Paolo Del Debbio, che saluto, buongiorno. Eccoci qua. Paolo Del Debbio conduce Quinta Colonna, che sta avendo un successo incredibile, e questo su Rete 4 il lunedì sera, e questo chissà, forse sta creando anche qualche problema. Tra poco magari ce lo dirà Paolo Del Debbio. Saluto anche a un bel ritorno, che saluto con piacere, Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia, il nostro imprenditore che però non disdegna anche qualche lieve critica alla politica. Lieve. Forchielli, buongiorno, ben svegliato. Eccoci. Oggi è sempre a Bologna? Non è in Sì, sono a Imola oggi. A Imola, vabbè, fatto poca strada. Allora, io, vabbè, intanto sulle note dello storico ormai Fiorello che ha fatto l'inno della Regione Lazio, lo faccio sentire anche a voi, non so se l'avete già sentito. Insieme soldi, i beni amati, soldi per i soldi. Chi ha tanti soldi vive come un pascià e con Fiorito se ne sta. L'inno della Regione Lazio, Le nostre tasche, tangenti, donne, whisky, festini ed oda rischie, perché chi ha tanti soldi usa il super smart e alla regione se ne sta. Cia. Spendi, spandi e spendi, non domandare da dove provengono, però cieli, regina cieli, prima o poi la finanza arriverà. Cia. Prima o poi la finanza arriverà. Eccolo qua, l'inno della Regione Lazio secondo Fiorello. Paolo Del Debbio, Alberto Forchielli, vi voglio far sentire ieri Mario Monti, il nostro presidente del Consiglio, che ieri ha utilizzato nella successione queste parole: bisturi, catastrofe, abisso, cancro e poi basta. La grossa penuria di socialità che affligge l'Italia e tutti i comuni italiani in questo momento, a seguito di un'operazione brutale che abbiamo dovuto compiere per evitare quell'altro scenario. Vorrei che di questo, ma so che siete consapevoli, non abbiamo agito con un bisturi fine su tempi prolungati, abbiamo dovuto evitare una catastrofe. Eccoci qua. Allora, Paolo Del Debbio, tu che ogni lunedì racconti anche il polso dell'Italia, andando nelle piazze, facendo sentire un programma, ripeto, che sta avendo moltissimo successo. È davvero così? Monti dice abbiamo usato mica un bisturi fine, qua bisognava evitare la catastrofe. Ma sai, questo, diciamo, le piazze te lo confermano, ma per chi è giornalista e soprattutto lavora in un emittente come la Torre del Sole, insomma, lo sa perfettamente, perché i conti sono quelli. Il problema, oltre a questo, è perlomeno per quanto capisco io, che le persone che vengono in piazza e che parlano non solo hanno il problema che non hanno più un soldo in tasca, molte di loro, perché ci sono quelli che ce ne hanno ancora tantissimi, ma non vengono in piazza. E la maggior parte non viene in piazza, sta in salotto e forse non guardano anche la televisione. Comunque, quelli ci sono, quelli che hanno tanti soldi. Il problema di quelli che non ce ne hanno è che dicono: ma non basta mai, cioè ora c'è la nuova scure, addirittura retroattiva sulle detrazioni. Prima c'era detto che sarebbe bastato forse che l'IVA non la facevano, invece c'è anche l'IVA. Insomma, è questo senso di, come ti posso dire, quasi di remissione, ma di dire: vabbè, tanto non siamo ancora al fondo, quindi prepariamoci al peggio. Cioè anche se ci dico, anche se ci dicono una cosa ottimistica, tanto poi verrà smentita pure questa. Non ci crediamo più e quindi andiamo avanti, ma tanto sappiamo che ora. E allora ad esempio spendo, nonostante sia risicatissimo il reddito, diciamo, residuo, cioè quello che fatte tutte le spese essenziali, quel che rimane, ormai nonostante sia risicatissimo, però lì lo mettono un pochino da parte, alcuni così ci raccontano, insomma, sì. perché hanno paura che arrivi qualcosa di peggio. Cioè il senso della sfiducia, no? È proprio il peggio del peggio, sì. C'è un paese che non ha fiducia in niente. È una situazione brutta, perché in questa situazione qui non consuma più nessuno, neanche chi avrebbe la possibilità di consumare, e ti dico, quegli 80, 100 euro 70, 80 al mese, 100 euro in più al mese, non li consuma. Alberto Forchielli, visto dal punto di vista imprenditoriale, che paese è quello in cui c'è questa sfiducia che Paolo Del Debbio col suo programma, ma che anche noi raccogliamo, cioè della gente che non crede più a niente, va bene, bisognava intervenire, va bene, eravamo sull'orlo della catastrofe, dice Monti, va bene, dovevamo utilizzare un bisturi e neanche tanto fine, ma la gente non ha più fiducia, cioè non si fida di nulla, Forchielli, e che paese è quello affidato a persone così che non si fidano di nulla? Beh sì, Monti ha sempre agito con la minaccia, non ha mai fatto vedere un disegno futuro, per cui il popolo italiano si è comportato con dignità, ha messo le mani in tasca, ha protestato in misura molto dignitosa, quindi il complesso comportamento è stato dignitoso. Però l'uscita nel 2014 non c'è, nel senso che il paese rimane indebitato, rimane supertassato, i soldi che abbiamo preso a prestito sono stati buttati via, quindi non è che abbiamo fatto investimenti che nel futuro ci proiettano verso un futuro radioso, per cui ovviamente è giusto essere sfiduciati. L'Italia è chiusa in una morsa tra due economie molto forti, che il blocco asiatico che cresce molto, gli Stati Uniti che una volta risolti i problemi di bilancio comunque hanno delle prospettive perché hanno una crescita demografica positiva, perché hanno la tecnologia, poi gli Stati Uniti hanno un forte deficit, però hanno una grande capacità di imposizione fiscale. E poi ci siamo noi. Capito? E poi ci siamo noi un po' lì in mezzo. Che lei ci ha detto una volta, siamo tra l'Europa e l'Africa, ma un po' più Africa mi sembra di capire, un po' più. L'Europa del Nord che si è tirata su perché con grandi investimenti nell'educazione, con un'accurata politica di bilancio, sono riusciti a fare gli investimenti giusti, mi riferisco alla Svezia, alla Norvegia c'è petrolio, la Danimarca va, la Germania si è ristrutturata, e l'Europa del Sud arranca. Sì, a parte i sacrifici, ma un disegno ottimista non c'è. Io ma non questo ho mai sentito fare Monti un discorso ottimista. No, Monti dice chi c'è dopo di noi potrà fare meglio, perché noi abbiamo posto le basi, abbiamo fatto quello che dovevano fare, quello che doveva fare la politica e che non ha fatto. Adesso non so, vedendo anche i giornali che ci hanno appena consegnato, vedo che il Sole dice lo spread ci fa respirare un po', anche il Corriere apre su questo, lo spread dà tregua all'Italia, hanno approvato il primo sì al Senato all'anticorruzione. Però vorrei chiedere questo a Paolo Del Debbio, perché c'era un'indiscrezione ieri sui giornali, di cui non si può non chiedere conto, del fatto che, visto che il tuo programma va molto molto bene come termini di ascolto, visto che racconta il disagio molto forte che c'è in Italia, nelle piazze, eccetera, e qualcuno all'interno del Popolo della Libertà si è lamentato, vuol dire, ma come, nelle nostre televisioni, su Mediaset va in onda una sorta anche di processo politico alla classe politica, anche la nostra, soprattutto la nostra, e quindi Del Debbio va cacciato. Pare che qualcuno abbia detto a Berlusconi, chiedendo la testa di Del Debbio, come la mettiamo, è vero? Ma stai, Milan. No, aspetta, chiedeva Del Debbio. Del Debbio. No, ma sai, se chiedono la testa vuol dire che ti riconoscono che ce l'hai. Si chiede già qualcosa, no? Perché magari se pensavano tu ce l'avessi, non la chiedevano neanche, insomma. E quindi che sono già onorato. Poi a me, diciamo, sono problemi loro, nel senso che se la vedono, se la cantano e se la suonano, nel senso che a me, franca, io tengo questa linea. Se questa linea un giorno mi si venisse detto, evidentemente non dal PDL, ma dalla direzione di Mediaset, che non va bene, io discuto ovviamente della linea, ma non sono molto propenso a cambiarla, quindi così il debito se ne trovano molti nel mondo, quindi ne trovano un altro, anzi molto meglio del debito, e quindi la fanno loro. Io o così o non faccio nulla, per cui vedano loro, insomma, non me ne frega, no, anche perché, praticamente niente. Non me ne frega niente, anche perché fino a due giorni fa diceva addirittura che Berlusconi pensava del debito come nuovo volto della politica, ma una cosa che è già smentito, eccetera. Però da due giorni fa, l'uovo volto della politica, ora cacciate del debito, insomma, anche questo è un segno un po' dell'impazzimento. No, non lo so, si vede che ci sono le idee confuse. A me non me ne frega nulla, né dell'una né dell'altra cosa, quindi insomma faccio volentieri il mio mestiere. Caffè. Grazie. Ma 5 caffè, veloce! E non lo fare acqua! Allora, siamo qui con Paolo Del Debbio, che conduce Quinta Colonna su Rete 4 lunedì e sera, e poi con Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia. Vi voglio far sentire D'Alema, ieri da Lilli Gruber, l'uomo più rottamando o rottamabile, secondo qualcuno. Se vince Bersani, cioè il rinnovamento, io lo agevolerò, non chiedendo deroghe, non candidandomi a Parlamento. Se vince Renzi sarà uno scontro. Io rinuncio alla candidatura, non solo perché avevo già pensato di rinunciare, ma perché penso che oggi questo mi consenta di fare meglio la battaglia politica. Allora, se vince Renzi, se vince Bersani, io non mi candido. Se vince Renzi sarà uno scontro. Paolo Del Debbio, sai come ha risposto oggi Renzi? Fa un'intervista a Repubblica, ha detto: vabbè, mettiamola allora così, se vince Bersani non si candida lui, se vinco io non lo candidiamo noi. Insomma, tra Renzi e D'Alema è proprio un disastro qua. Sì, dice proprio uno scontro. Io quello che non mi piace di questo scontro, come non mi piace generalmente gli scontri che fa Renzi, è che non ho capito cosa dice a D'Alema che ha fatto di sbagliato. Forse è lì da troppo tempo, è lì da troppo tempo questa cosa. Sì, ma non basta. Il fatto che uno è lì da troppo tempo è una solenne bischerata, secondo me. Sì, c'è un po' di accanimento, c'è qualcosa in più. Cioè, mi deve dire, allora, D'Alema ha sbagliato. Uno, perché ha fatto la guerra lì nella ex Jugoslavia. Oppure due, perché ha tirato giù Prodi. Tre, perché fece una politica con Gruppo Liberardi e compagnia che non andava bene. Quattro, queste cose, allora io capisco. Altrimenti rimane veramente una roba, no, non ti voglio più, un po' zitellesca, capisci? Sì. No, ma da parte di D'Alema pensare che ci sia un po' di accanimento su questo, da questo punto di vista io spendo una parola in favore di D'Alema. Effettivamente D'Alema dice: ma sei un attacco personale, cosa devo fare? Ma io voglio... Ma quando nel PC c'erano le battaglie, non so, Amendola in Grao, uno sapeva... cosa pensava Amendola, cosa pensava in Grau, e diceva: ah, forse io sono d'accordo con uno, sono d'accordo con l'altro. Sì. Io Renzi li sento di rottamare, e francamente io non ho ancora capito per far che. Ma lui stesso l'ha detto, ripeto, oggi sul Corriere, una parola brutale, truce e volgare, ma mi ha fatto prendere dei titoli di giornale e mi ha reso... Dichiarazione, complimenti, andiamo bene. Così ha detto Madonna Renzi. Mia. Ma vorrei da Alberto Forchielli un commento di quelli suoi pacati su come la vede questa questione della politica e della rottamazione. Forchielli, fa bene D'Alema un po' a risentirsi di questo accanimento? Ma sì, la storia ci ha insegnato che tutte le volte che ci siamo reinventati una classe politica, quella nuova era peggio di quella precedente. Quindi, capito, io ci vado molto cauto su questa, al di là delle persone, però questi slogan che questo paese vada affidato ai giovani è tutto da scoprire, perché l'esperienza conta, capito, e c'è anche della gente intelligente, per cui questi slogan facili mi fanno sempre molto... mi lasciano sempre molto perplesso. Come hai detto? L'altra volta ci aveva detto che Renzi cos'era, tanto format. È un format. Perché non piace di Renzi? Cosa non piace di Renzi, Forchielli? Ma primo perché ha una politica di che non è perseguibile con l'attuale compagine, per esempio, capito? Sì. Perché la politica che lui auspica non è concepibile con un elettorato di sinistra che è condizionato dalla CGIL. Ah, ecco, la CGIL. Ma lui vorrà cambiare, stava con Marchionne, con Marchionne. Sì, ho capito, però hai capito, a me sti giovani inventati in televisione, il Grande Fratello, insomma, capito? Dal format al Grande Fratello, no, si fermi qui, dal format. Cioè, l'altra volta ci ha detto che Renzi è il format, adesso che Renzi praticamente ha inventato il Grande Fratello, questi giovani così. Vi ricordo che... Di cosa parleremo? Alle 8.30 torneremo sul caso del direttore del giornale Alessandro Sallusti, sarà nostro ospite insieme all'ex magistrato Bruno Tinti per parlare della vicenda direttore del giornale e carcere, giornalisti e carcere, meno 9 giorni al carcere per Sallusti, ma poi ci andrà. Ma l'ex senatore, l'ex PM Gerardo D'Ambrosio è stato molto duro a dire non entrerà in carcere neanche se bussa a San Vittore Sallusti. Stiamo a vedere, avremo anche alle 8.15 Mario Tassone, deputato dal 1976, visto che si parla di rottamazione, oggi forza l'UDC. Ora i giornali in edicola. In questo giovedì 18 ottobre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, tassi BTP al 4,7%, mercati in rally, l'apertura dunque finanziaria, così il Corriere della Sera, lo spread dà tregua all'Italia. Poi c'è la vicenda del PD, rottamazione, D'Alema, non mi ricandido, così su Repubblica. L'anticorruzione, primo sia all'anticorruzione per la Stampa, anticorruzione sì del Senato, questo è il Messaggero, l'Unità invece, D'Alema con Bersani senza deroga, poi torna la vicenda della casa Monte Carlo e il presidente della Camera Fini. Il Fatto Quotidiano, casa di Monte Carlo, ora Fini è nei guai. Il Giornale, casa Fini, atto secondo, Libero, Fini, che fai, ti cacci? Vedremo di cosa si tratta. L'apertura del Manifesto sull'anticorruzione alla faccia, e ci sono il ministro Severino e il premier Monti. La ministra Severino, scrive il Manifesto, ascolta tutte le richieste del PDL e riscrive il DDL sulla corruzione. Avvenire invece la povera Italia dei pacchi viveri. Il rapporto Caritas, vanno a ruba i BTP Italia, ma casalinghe e pensionati le fasce più in crisi. Allora, da cosa voglio partire? Una notizia che trovate a pagina 11 su Libero è la storia di un commerciante che ha iniziato a utilizzare Twitter, dove trovate anche noi, io non lo ricordo mai abbastanza, 24 mattino, l'account della trasmissione, io sono invece Alino Milan e sono lì, su Twitter. Ebbene, questa storia di un'iniziativa di un commerciante che si è diffusa sempre più su Twitter e propone questo: online tutte le spese dei partiti. Racconta Roberta Catania, ecco l'idea che esalta la rete. L'ha lanciata Claudio Vaccari, commerciante della provincia di Cremona, 57 anni, che ha iniziato a inondare la rete con un documento scritto da lui, in cui chiede che chiunque riceva un finanziamento pubblico sia obbligato a renderne conto su internet. Obbligo per chiunque usi o benefici di finanziamenti pubblici di pubblicazione in rete dei propri bilanci, con particolare riguardo agli importi e alla rendicontazione dell'uso di ogni singolo finanziamento pubblico in modo da permetterne la consultazione in via telematica. Obbligo che vale per chiunque. Un'idea, se volete, anche banale o di banale correttezza, che però si è diffusa sempre più su Twitter. E lui ora spiega perché l'ho fatto. Perché è un commerciante di arredamento, ho un negozio a Soresina, uno a Cremona, sto stringendo i denti per non chiudere e cerco di ragionare con la mia testa. E allora, usando Twitter, ha iniziato a scrivere a qualche politico, visto che qualcuno rispondeva, si poteva aprire un dialogo, allora ho cominciato a mandare alcune proposte. Una di queste, appunto, pare che stia avendo abbastanza successo in rete. Online le spese dei partiti, a pagina 11 di Libero. Vi voglio raccontare invece di una sentenza importante, a suo modo storica, ne parla il Corriere della Sera, pagina 30, con Vilma Petenzi. Cancro da cellulare, sì della Cassazione al manager malato. È una sentenza sicuramente storica, perché la Cassazione ha stabilito che c'è una relazione diretta tra un tumore alla testa e l'uso continuo e prolungato nel tempo del telefono cellulare, una neoplasia ai nervi cranici direttamente collegata all'uso del telefonino. Ha beneficiato di questa sentenza Innocente Marcolini, 60 anni, di Carpenedo, l'ex direttore finanziario di una multinazionale bresciana che ha vinto la sua battaglia legale perché la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'INAIL alla sentenza di appello, riconoscendo l'esistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa del manager, svolta prevalentemente al cellulare o al cordless, e l'insorgenza di un tumore benigno al nervo trigemino. Dunque il giudice ha stabilito la validità dei riferimenti scientifici portati in aula, una sentenza giudicata storica che Marcolini vive come una vittoria da condividere con tutti, perché sono finalmente, parole sue, state scritte nero su bianco i rischi che si corrono usando in modo non corretto il cellulare. È la storia di una persona che per 6 ore al giorno, racconta, per almeno 12 anni era al telefonino a concludere affari con Cina, paesi arabi, sempre senza usare l'auricolare, ricorrendo raramente al viva voce. E dunque eccolo qui i risultati: viso semiparalizzato e ogni giorno l'uso di antinfiammatori e morfina per sopportare il dolore. Ora, appunto, una sentenza che rischia di diventare una sentenza, come si dice in questi casi, storica, importante. Pare che non sia la prima, comunque, nel senso che ce n'è stata un'altra. Il collega Francesco Morelli, stesso lavoro, stessa azienda, stesso uso del telefono, colpito dallo stesso tipo di tumore al nervo trigemino. Lui non è stato operato, ma è costantemente sotto controllo. Insomma, questa vicenda la trovate raccontata sul Corriere della Sera a pagina 30. Sicuramente potrà interessare molte persone che utilizzano il cellulare per tante ore e che magari sono preoccupate da questa cosa. Uno dei temi politici sicuramente del giorno è il primo sì il Senato all'anticorruzione. Il premier Mario Monti ha detto: ci ho messo la faccia. Tra l'altro ha fatto questa battuta, l'avete sentito nel giornale radio, c'è una battuta, no? Una cosa molto seria che però secondo me non gli è uscita benissimo. Ha detto: una volta parlavo con l'emiro del Qatar, e poi ha aggiunto, cioè non con il re di Norvegia, cioè con l'emiro del Qatar, e mi ha detto che il problema dell'Italia è la corruzione. Insomma, questo paragone sembra quasi dire perfino quelli del Qatar, che non è un gran complimento per l'emiro del Qatar e gli abitanti del Qatar, dire, cioè non è che stavo parlando con il re di Norvegia, ma perfino l'emiro del Qatar mi ha detto questa cosa. Vabbè, comunque ci ho messo la faccia, ha detto Mario Monti, ora siamo più credibili. Il primo sia l'anticorruzione, trovate sul Sole 24 Ore, ma anche sui giornali, su come il Corriere della Sera, pagina 3, tutto gli elementi del testo approvato a Palazzo Madama. Non hanno messo l'incandidabilità dei condannati, ma c'è una delega al governo entro un mese per farlo, e il ministro Severino, Palla Severino, ha detto ora, subito, non c'è tempo, non c'è da perdere, e bisogna fare questa cosa dell'incandidabilità dei condannati in Parlamento. E le altre sono tante le novità, insomma, per esempio nasce la commissione per la valutazione, trasparenza e integrità dell'amministrazione, la CiVIT, che con questa legge, cioè nasce con questa legge, la CiVIT opererà quale autorità nazionale anticorruzione. Poi c'è ci sono le cosiddette misure anticricche. I dirigenti, ci sarà più rotazione nella pubblica amministrazione, saranno formati sull'etica. Insomma, ci sono tante novità, di un provvedimento non è che si possono sintetizzare in qualche secondo. C'è anche, come scrive Giorgio Santilli sul Sole 24 Ore a pagina 6, oltre alla repressione dei reati attraverso le misure penali, la prevenzione, che si rivolge soprattutto ai settori economici più esposti a rischio, come quello degli appalti pubblici, perché il DDL approvato al Senato prevede numerose norme che mirano a dare maggiore trasparenza, in alcuni casi anche più efficienza nella vigilanza, sia nella fase della gara sia all'esecuzione contrattuale, nuovi obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni, per esempio, che dovranno pubblicare sui propri siti web istituzionali una serie di informazioni sul bando, come l'oggetto, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, i tempi di completamento dell'opera. Sull'obbligo vigilerà l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Insomma, trasparenza online, white list antimafia, questo per gli appalti pubblici è una novità importante, perché lì si annida molta della corruzione. Come detto, ci ho messo la faccia, dice Monti. Monti che ieri ha parlato anche delle misure prese negli ultimi tempi da quando è presidente del Consiglio, e non è andato giù tenero. Ha ammesso, ha detto: è vero, abbiamo adottato misure brutali, e ha inanellato una serie di dichiarazioni nelle quali ha parlato di misure brutali, bisturi utilizzato, cancro da estirpare, rischio di catastrofe, e insomma ha snocciolato un elenco di prospettive molto negative, per poi dire: ma chi arriverà dopo di noi potrà fare meglio grazie a questi interventi e misure brutali. Dino Pesole racconta, pagina 8 del Sole 24 Ore: è vero, ammette il Presidente del Consiglio, che la crescita non si vede, ma non per questo non vi è stata attenzione da parte del governo. Ieri era l'Assemblea Nazionale del Lanci in Corso a Bologna, ha ammesso di aver utilizzato non certo un bisturi fine, ma lo ha fatto per evitare la catastrofe. E d'altra parte i comuni sono proprio quelli più arrabbiati. Due giorni fa il sindaco di Alessandria, qui ai nostri microfoni, ha detto, per esempio, quello è un caso un po' più emblematico: siamo falliti e il 27 del mese non avremo i soldi da dare ai dipendenti del comune, circa 2.000. E la stampa, che cita tra l'altro questa vicenda, riprende la nostra intervista e fa un focus sui comuni che hanno già spento la luce. Questo è il titolo a pagina 10. L'operazione risparmio, per esempio, quella Cieli Bui, annunciata al Consiglio dei Ministri, cioè a chiudere un po', a spegnere un po' di luce. Ho visto anche un ministro in TV, Fabrizio Barca, dire: ma a me piacciono i cieli stellati, recuperiamo i cieli stellati delle periferie e spegniamo le luci per risparmiare. Beh, la stampa fa notare che i comuni hanno già spento la luce. L'operazione risparmio, ci sono Torino, Reggio Emilia, Bologna, Andorra in provincia di Savona, Todi in provincia di Perugia, Torraca in provincia di Salerno, Bari, già con chi ha scelto i lampioni intelligenti, cosiddetti, quelli che si autoregolano, cioè si spengono a una certa ora, si decidono o si autoregolano in base al livello di luce naturale. Insomma, già questo i comuni lo fanno per risparmiare. Come detto, invece, non è entrato il tema dell'anticorruzione, non è entrato il tema dell'incandidabilità delle persone condannate in Parlamento. Non è escluso a questo punto che domani ne parleremo, però è stata data una delega al governo per agire entro un mese e quindi i tempi stringono. E sentite Maurizio Paniz, intervistato da Repubblica, noto avvocato onorevole, intervistato da Annalisa Cuzzocrea. Trovate l'intervista a pagina 10, parla, vabbè, prima parla un po' di Formigoni, dice non si doveva dimettere, poi il caso Ruby, insomma le solite questioni. E poi nessun allarme corruzione, dice Paniz, in Parlamento i condannati sono una trentina, su un migliaio di persone è il 3%. Mi sembra una percentuale molto bassa. Così l'onorevole Maurizio Paniz su Repubblica. La politica, questo per iniziare, la politica sono due i temi che ricorrono e ritornano sui giornali: il tema rottamazione del centro-sinistra o rinnovamento del centro-sinistra del Partito Democratico, la Lombardia quasi al voto e il centrodestra che fa con Berlusconi sempre silente. Questi sono i grandi temi che ritornano anche oggi, anche perché D'Alema ieri è andato in TV da Lilli Gruber, è tornato da Lilli Gruber e ha detto: se vince Bersani non mi ricandido, ma se vince Renzi ci sarà uno scontro, questo alle primarie. E oggi lo stesso D'Alema fa un'intervista all'Unità, alla quale risponde Renzi con un'intervista a Repubblica. Premessa però, ieri Renzi ha incontrato prima il GOT dell'economia, così scrive il Corriere della Sera con Angela Frenda, pagina 11, e poi il gotto della finanza a cena. E sapete che cosa dice Renzi stesso della rottamazione, colui che ha inventato il termine rottamazione? La rottamazione è una frase bieca, truce e volgare, ma mi ha portato titoli sui giornali e mi ha reso credibile. Così Matteo Renzi, scrive il Corriere, fa una parziale retromarcia a questo punto. In qualche modo fa un mea culpa sull'espressione che più lo ha reso celebre. Però certamente fa specie sentire che Renzi stesso dica è una frase bieca, truce e volgare, quella della rottamazione, ma mi ha portato titoli di giornali. L'Unità, Nini Andriolo intervista l'ex premier Massimo D'Alema che continua la sua battaglia contro la rottamazione, e guardate cosa dice di Renzi: non è un piccolo maleducato, ma le sue posizioni sono l'irrompere del qualunquismo populista nel nostro campo, il rischio, come ha scritto Scalfari, di una vera e propria mutazione, è l'intromissione di un rampantismo senza radici e senza principi. E ancora ribadisce: se vince Renzi temo si aprirà un conflitto, d'altro parte è questo quello che vuole lui, quello che annuncia. Se invece Bersani vince è promotore del rinnovamento e io non chiederò alcuna deroga. Alla domanda c'è chi le rinfaccia da Lema di voler rimanere in ogni caso sulla plancia di comando. Questa è una critica volgare, risponde da Lema. Non ho mai difeso posti, non ho difeso quello di presidente del Consiglio, né ho preteso di mantenere le mie candidature alla presidenza della Camera e della Repubblica. Ho sempre fatto valere un disegno, l'adesione a un disegno collettivo. Insomma, un D'Alema che però attacca, e sentite come risponde Renzi, intervistato da Claudio Tito su Repubblica, la trovate l'intervista a pagina 4. Mettiamola così, risponde Renzi: se le primarie le vince Bersani, allora non si candida D'Alema, se le vinco io non lo candidiamo noi, la sfida delle scelte è queste. Cioè il solito Renzi implacabile, dice: finalmente la discussione sulla rottamazione può prendere un altro verso, mi pare che sia un gesto onorevole da parte di D'Alema, ma io non intendo strumentalizzare. Poi comunque Renzi che torna su quella frase che poi D'Alema peraltro ha smentito, affidata alla Stampa, in cui, quando D'Alema disse Renzi si farà del male, e il sindaco di Firenze dice: beh, quando il presidente del COPASIR, come è attualmente D'Alema, cioè dei servizi segreti, mi dice che posso farmi male, allora mi preoccupo, dico che quella è una frase infelice, o almeno spero che sia solo una frase infelice. Io rispetto i risultati delle battaglie politiche, ho annunciato che se perdo le primarie non mi candido in Parlamento. E insomma un Renzi che torna da D'Alema e Veltroni, nobile atto di rinuncia, Bindi e gli altri li seguono. E dunque Renzi ora alza il tiro su Rosi Bindi. Tra l'altro c'è un interessante corsivo di Corrado Formigli, il conduttore di Piazza Pulita sulla 7, che su Pubblico a pagina 7 invece prende la difesa di D'Alema. Corrado Formigli che dice: lo ribadisco, D'Alema secondo me si deve ricandidare. Non è possibile che politici corteggiati e riveriti siano diventati di colpo tutti dei lebbrosi. Su Twitter qualcuno ha segnalato il mio favore alla conferma di D'Alema con toni stupefatti, manco avessi lanciato la candidatura di Pacciani. Ribadisco ciò che penso. Secondo me un uomo di 63 anni che ha guidato un grande partito, fatto il ministro, il presidente del Consiglio, non è per questo da rottamare. D'Alema ha esperienza, competenza, conosce la macchina dello Stato. E poi conclude il suo corsivo Corrado Formigli: in fin dei conti Ted Kennedy ha fatto il senatore a 70 anni e Marianna Madia la deputata a 28, diciamo così Corrado Formigli. Dall'altra parte invece c'è il centrodestra con un Berlusconi che pare dica: vedete, imparate da Veltroni ai suoi, Berlusconi ha detto così, imparate da Veltroni, fatevi da parte. Voi, ovviamente. Pare che dall'altra parte Berlusconi dica, appunto, così scrive Libero con Salvatore Dama, pagina 4, imparate da Veltroni, fatevi da parte, questo ai suoi. Ovviamente io ho aggiunto ironicamente anche su Twitter, fatevi da parte voi. Berlusconi invece non si capisce ancora bene cosa voglia fare, se bisogna ascoltare gli sfoghi di Daniela Santanchè, che oggi il Fatto Quotidiano raccoglie degli ultimi tempi, è questo: la Nikita del Cavaliere spara ai vecchi colonnelli, cioè Berlusconi dovrebbe azzerare tutto, basta al partito, azzeriamo tutto, si devono dimettere. Daniela Santanchè parla dei suoi, ma hanno capito che è finita, è finito tutto, bisogna azzerare, bisogna tornare al partito di plastica. A me la plastica piace tantissimo, così Daniela Santanchè. A proposito di plastica, forse non c'è esibizione più plastica del fatto che il centrodestra è in una situazione di difficoltà di quello che sta succedendo in Lombardia, almeno stando a quanto racconta dei giornali, dove Formigoni intanto dice: nessuno, l'abbiamo mandato prima in onda, nessuno riuscirà a rottamarmi, io non vengo rottamato da nessuno. E un Formigoni che pare dai giornali scaricato dallo suo stesso partito, da Berlusconi stesso, ora voglia meditare una sorta di vendetta politica. Sentite Giovanni Palombo sul Secolo XIX a pagina 3: il celeste furioso, mi scaricano e io faccio vincere la sinistra. Prima scena, racconta Palombo, Giulio Tremonti si imbarca su un volo Venezia-Roma, 3 giorni fa si accorge di un deputato PDL, si avvicina e gli dice: solo io potevo salvarvi, ma mi avete voltato le spalle. Scena seconda, ieri Formigoni parla con Alfano al telefono, il governatore è furibondo, ha avuto la prova dell'accordo tra il segretario Berlusconi e Maroni e dice questo, secondo il retroscena del Secolo: piuttosto che dare la regione in mano alla Lega, faccio una lista per far vincere la sinistra. E anche Repubblica la mette addirittura così: il celeste è pronto a lasciare il partito. Carmelo Lopapa racconta, pagina 11, Formigoni: esco dal PDL, questo non è più il mio partito, faccio una mia lista e ci rivediamo alle elezioni. Ovviamente sono tutte retroscena, perché Formigoni ufficialmente in un'intervista oggi al Messaggero a pagina 8 a firma Renato Pezzini dice: scontro all'interno del partito? No. Perché dice questo? Ci sono divergenze fisiologiche, ma nel partito non abbiamo ancora affrontato il tema della data del voto. L'impressione è che il partito la stia scaricando, presidente, in nessun modo. Insomma, un Formigoni che pubblicamente mostra grande sicurezza. Intanto si registra un altro assessore, l'assessore all'ambiente Raimondi, scrive il Corriere, vicino a CL, indagato così a pagina 13 in una inchiesta. Problemi anche che tornano Perfini e la casa di Monte Carlo torna in primo piano. L'Espresso annuncia rivelazioni su Domani sulla casa di Monte Carlo, e anche il Fatto Quotidiano con Marco Lillo oggi attacca. Ecco tutti gli affari della signora Fini. Marco Lillo a pagina 5 del Fatto: le carte che oggi pubblichiamo impongono al presidente della Camera Fini di convocare immediatamente la stampa per dire o spiegare le relazioni del cognato Giancarlo Tugliani e della moglie Elisabetta con il re delle slot machine Francesco Corallo, attualmente latitante, e con James Wolfenzau, prestanome consulente di questo imprenditore, oppure semplicemente Fini deve dimettersi da presidente della Camera. Le carte sono quelle depositate dai PM della Procura di Milano per chiedere l'arresto di Francesco Corallo, appunto latitante, che ha portato un'inchiesta, quella che ha portato i domiciliari anche l'ex presidente della Banca Popolare di Milano Ponzellini, perché quando i finanzieri entrano in casa di Corallo si sono imbattuti nel passaporto della moglie del presidente della Camera, Elisabetta Tugliani, e nella dichiarazione firmata da Giancarlo Tugliani, dunque il fratello di Elisabetta, nella quale il cognato di Fini attesta a una banca che è lui il possessore al 100% di una società di St. Lucia che fa attività immobiliare. Il Fatto pubblica tutto questo. Ovviamente Libero e il Giornale, Libero addirittura titolo a pagina 3, sputtanato per sempre, Gianfranco ora che fai ti cacci, e il Giornale attacca: avevamo detto che il presidente della Camera aveva mentito e aveva detto: se si dimostra che la casa è di mio cognato mi dimetto, ora si deve dimettere. Così attacca Alessandro Sallusti in prima pagina. Quanti secondi ho, Filippo? 20 secondi. E che dire, devo chiudere allora con Schettino. Mi aveva incuriosito molto questa sconvolto questa inchiesta di farmaci e di medici accusati di pagare, di prendere prebende per dare ormoni non necessari a bambini. Un'inchiesta che trovate però sui giornali un po' ovunque, incredibile. Schettino, così sono scappato dalla nave. Su Libero, un'intercettazione secondo i PM. Quando ho capito che la nave si stava inclinando, ho preso e sono sceso. Così avrebbe detto il comandante Schettino. Ecco a voi, e vi voglio presentare, lo ringrazio per essere con noi, un politico che ha anche acquisito i riflettori, la luce dei riflettori di recente, perché è in politica da tanti anni. Mario Tassone, buongiorno, onorevole. A lei, buongiorno. Dell'UDC, in Parlamento dal 1976, è corretto? Oh. È così? Sì, sì. Prima legislatura 76. È così, è andato di fatto. Senta, ha sentito che Pisanu vuole ricandidarsi per diventare il più longevo della politica? Lei è invidioso di questo? Vorrebbe anche lei si ricandida? Ma non lo so, qual è la notizia politica che su cui dovrei interloquire? Perché se lei mi dice che Pisanu si vuole candidare, e vorrei capire il dato politico. Io ritengo che se uno ha la forza, se la sente di andare a candidarsi, si candida. No, il dato politico è che si parla... Il dato politico oggi che interessa il... Ha sentito parlare di rinnovamento? Di questo parliamo. Ho sentito parlare anche di rinnovamento, senz'altro, ma qual è il dato politico che di Pisanu che si vuole... Ecco, si vuole candidare in politica. Ma chi ha detto questa cosa? Voglio il record di longevità. Siccome lei è il terzo, rischia di batterlo. Sono invidioso. Pisanu si può candidare e sono contento che Pisanu si può candidare. E per quanto mi riguarda, da tempo mi sono rimesso al partito, alla decisione del partito, anche perché, siccome non ci sono concorsi pubblici, non sono posti fissi, non sono eccetera, eccetera. Ognuno ovviamente se la sente, ci sono le condizioni, continua, se no si deve fare il rinnovamento che ci auguriamo sia sempre un dato forte acquisito di valore in questo nostro paese, dove c'è il rinnovamento di pensiero e ci siano ovviamente le tensioni e le passioni. Ho capito, ma questo sì, ma no, certo. Allora, rinnovare è difficile, ecco perché no. Ma non mi sfuggiva, chiedo scusa, mi sfuggiva il fatto di Pisanu che fosse il tema politico del giorno. Perché Pisanu anche perché abbiamo grossi problemi. Certo, questo sì. Paese, no, però voglio dire, senta, ma una trasmissione seria con la vostra, ecco, avevo qualche perplessità, le chiedo scusa. Niente, tutto chiarito. Perché non avevo visto le prime pagine dei giornali oggi, vabbè. Ma comunque anche perché nel dibattito di Obama Romney non si parlava di questo. Voleva parlare di Obama e Romney. Non avevamo parlato di Pisanu, però cita l'America, dove ogni 4 anni lì rischiano di andare a casa. Tassone, mi fa un assist che è qui lì. Lei vuole fare l'assist. Io ho detto che da Romney Obama io non le faccio nessun assist, io gli faccio, se lei fa riferimento agli 8 anni che possono fare i presidenti degli Stati Uniti d'America, allora lei siccome è un giornalista attento faccio il discorso anche sui poteri del presidente degli Stati Uniti d'America e quello che rappresenta. Uno stando in Parlamento non conta meno, e quindi può stare 40 anni. Non è conta meno, ci sono ruoli diversi. Ecco, mi pare che lei ovviamente deve fare alcuni approfondimenti, glielo auguro che lo faccia. Va bene, andrò a studiare. Nel frattempo studiare approfondimenti politici, per carità. Andrò a studiare politica, certo, approfondimenti politici. Perché che significa che quando lei mi dice i deputati contano meno, sono ruoli diversi. Devo parlare di Costituzione e ci sono ruoli diversi. Guardi che è lei però che ha citato Obama e Romney. L'ultima cosa a cui pensavo per fare una battuta, che Obama Senta, però, allora, le chiedo questo. Che ne pensa lei di Renzi e della sua battaglia, anche se non è del suo partito, della sua battaglia per il rinnovamento o della rottamazione? Le piace questo termine? La rottamazione, insomma, non lo so. Credo che sia stato acquisito moltissimo anche dai luoghi comuni, recuperato anche dai mass media. E non credo che faccia parte, ecco, dal bagaglio umano, dei valori umani. La rottamazione fa parte... quando ero piccolo si rottamavano le macchine, eccetera, eccetera. Ma guardi che anche Renzi l'ha detto ieri, oggi c'è sul Corriere della Sera, ha detto Renzi, rottamazione, lo ammetto, è una parola volgare, truce, ma mi ha fatto guadagnare dei titoli di giornali, ha fatto capire che cosa intendo. La provocazione forte, amico mio, fa sempre guadagnare dei giornali, ma poi ovviamente uno diventa anche famosissimo facendo grandissime cose oppure diventa anche popolare per cose non esaltanti. Però se uno conta la popolarità, uno è popolare, tutti sono popolari, vanno in prima pagina sia per le grandi imprese sia per le bruttissime imprese. Ma essere un ragionamento, però le chiedo, essere dal 1976 in Parlamento, secondo lei non è troppo a questo punto? Sì, sarà troppissimo questo qua, per cui io mi rimetto ovviamente alla volontà del mio partito, l'abbiamo fatto con grande impegno, con grande passione, non credo che questo sia un fatto impediente per poter decidere serenamente. Dal 76, con un'interruzione, mi hanno mandato gli elettori, abbiamo fatto le battaglie politiche, non ho mai abbandonato il pezzo e con una costanza e con una continuità e soprattutto con un decoro e con un rispetto delle risultati del mandato elettorale. Ma questo nessuno lo mette in dubbio, però sa, quando si dice il ricambio generazionale. Ma non si mette in dubbio, io non le sto dicendo questo, perché mi dice questo? E siccome tutto ormai la vita, ma è giusto che sia così, per carità di Dio, ormai anche le informazioni, gli strumenti sono così, per questa è la decadenza di una cultura, di un mondo e della politica. E siccome si va tutto sul tecnicismo, come se non ci fossero i dati politici, personali, umani, storie e così via, è tutto un fatto tecnico, un'equazione, 10 anni, 15 anni, quando sono andato in Parlamento c'era la Iotti, c'era Aldo Moro che è stato, lei ha detto in una recente intervista, mi ha lanciato il suo maestro politico, l'ha lanciato il suo maestro politico, il suo mentore politico. Il mio riferimento, è il riferimento forte che rimane scolpito nel mio cuore per tutto quello che mi resta da vivere, insomma, visto considerato, non per essere rottamato. Non parlo da persona, anche se ho visto un po' qualche intervista di qualche amico di partito di Renzi, hanno qualche sospetto che la rottamazione va oltre il dato politico, per cui lui si è sentito il dovere di chiarire. No, questo qua è il dato, per cui ecco, la dimensione umana fa parte anche di questa nostra vita, ecco. Questo sicuramente. E non il fatto tecnico della senta, della dovesse non essere ricandidato dal partito, adesso vedremo. Continuerà a fare politica fuori. L'associazionismo e politica. Ha già fatto i calcoli? Fare politica. No, ma mi faccia chiedere questo: ha già fatto i calcoli anche del vitalizio che le spetta dopo tante leggi? Molto modesto, ma hanno detto 6.800 euro. No, scusi, modesto, 6.800 euro. 6.800, sì, perché se lei pensa quanto prendono le liquidazioni degli amministratori dell'Enel, delle ferrovie che si ho fanno. Capito, ma anche, scusi, i metalmeccanici dopo 40 anni non prendono. Dopo 40 anni prendo cose, 6.800 euro con altre situazioni che verranno ad essere decurtate. Questo qua io mi scusi, è molto modesto secondo lei? Io sto parlando non del netto, sto parlando ovviamente delle... Sì, ma mi scusi onorevole Tassone, si ponga nei panni, aspetti, si ponga nei panni di un metalmeccanico che lavora 40 anni, prenderà 1.000 euro di pensione al mese. Io vorrei avere e l'indennità di un direttore, purtroppo la devo lasciare, di un direttore di un giornale. Sì. Lei lo sa che i direttori dei giornali, o soprattutto i direttori della RAI, prendono i 15-20 mila euro anche quando non sono più direttore. Beati loro. No, Beatrice lo sa, ma io sono di Radio 24, la Rai. Allora, io lo saluto moltissimo. Vabbè, grazie. Io parlavo nonno del netto, parlavo ovviamente del sì, però molto modesto, capisce che 6.800 euro, molto modesto. Sì, beh, saranno 3.500 in tutto, perciò ed è modesto. Uno pensa che ci siano dei 10, quindi se lei è qualsiasi direttore generale prende molto di più. Ora lei ovviamente deve farsi un quadro di riferimento più serio, l'auguro sì. Moltissimo grazie. Che me lo mantengano alla Radio 24. Grazie, mi auguro anch'io che mi mantengano qua. Che lei fa, ovviamente sono di bassa lega. Va bene, la ringrazio, bassa lega non nel senso di lega, grazie, adesso vado a studiare un pochino di politica e di costituzione, anche americana, così mi preparo per le imminenti elezioni americane. La ringrazio molto, onorevole Mario Tassone, dal 1976 in Parlamento, le auguro ovviamente di godere per tantissimi anni, almeno 50-60, di questo modestissimo vitalizio di 6.800 euro lordi quando non sarà più parlamentare. Siamo qui con il direttore regionale Alessandro Sallusti, che saluto. Buongiorno direttore, eccoci qua, ritrovati. Buongiorno. Saluto anche l'ex magistrato Bruno Tinti, oggi firma del Fatto Quotidiano. Tinti, buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, di cosa vogliamo parlare? Forse l'avete capito, oggi il giornale titola meno 9 giorni al carcere. Sallusti ormai è noto, è stato condannato per un articolo uscito su Libero qualche anno fa, 14 mesi di carcere, questa è la condanna definitiva in Cassazione. Non c'è stato il decreto per cambiare la legge sulla diffamazione a mezzo stampa, non è passata in commissione al Senato il DDL sulla diffamazione a mezzo stampa. Ieri Sallusti scriveva a politici, in pratica cialtroni, facendo nomi e cognomi tra l'altro, di chi secondo lui ostacola di più questo provvedimento, che scrive Sallusti non è un provvedimento per me ma vale per l'intera categoria. Sallusti, chi sono questi nomi e cognomi che stanno ostacolando secondo lei questo provvedimento? Beh, al Senato si sono palesati perché hanno votato per rimandare il provvedimento in aula, cioè metterlo su un binario lungo se non addirittura morto. Un po' più sopra di loro ci sono i loro capigruppo, ci sono i loro referenti politici che a parole avevano detto che era un provvedimento giusto e che andava approvato velocemente, che poi invece mi riferisco ad Angela Finocchiaro, Antonio Di Pietro, mi riferisco a Gianfranco Frini, che sono i referenti politici di quei senatori che hanno bocciato, affossato il decreto. Senta, sa che c'è qualcuno che dice, per esempio Italo Bocchino, che certo non è un suo ammiratore, ci marcia su questa storia Sallusti, e anche l'ex PM, capo del pool di Mani Pulite, Gerardo D'Ambrosio, oggi senatore del Partito Democratico, ha detto ma Sallusti in carcere non c'entrerà neanche se bussa a San Vittore. Lei sta facendo una battaglia personale, una battaglia per la categoria, o sta esagerando una situazione che in realtà non la porterà mai in carcere? Ma innanzitutto mi stupisce che un ex magistrato senatore della Repubblica dica che non entrerò mai in carcere neanche se busso, quando c'è una sentenza che dice il contrario. Quindi non capisco come un magistrato senatore possa dire che le sentenze non vanno applicate. Allora, se la sentenza non va applicata, non capisco perché me l'hanno inflitta. Io credo che sia una battaglia, è ovvio che tutte le battaglie nascono da fatti personali, ma a questo punto diventa anche una battaglia più che a favore di una categoria che secondo me è la nostra, dei giornalisti, che per quello che vedo non è che meriti questa battaglia. È una battaglia contro una magistratura che si è comportata in maniera assolutamente indegna, perché se è vero che tutti, dico esagero ovviamente, ma per intenderci, tutti i politici, quasi tutti i magistrati dicono che è una sentenza ingiusta, tant'è vero che va riformata attraverso una legge, beh, allora chi l'ha emessa dovrebbe essere radiato dalla magistratura. Perché non è possibile che due magistrati, uno di Corte d'Appello e uno di Cassazione, emettano una sentenza che viene considerata inaccettabile. O io vado in galera senza se né ma, perché la sentenza è giusta, oppure se quella sentenza è sbagliata, quel magistrato deve pagare. Allora, magistratura indegna, qui abbiamo uno che della magistratura ha fatto parte, non le chiedo però, Bruno Tinti, di fare una posizione di, come dire, di casta contro un'altra casta, tanto siamo un paese tutto di caste, anche noi giornalisti siamo una casta, non creda. Però non le chiedo appunto di fare una difesa corporativa, ma l'abbiamo chiamata perché lei fin dal primo momento sul Fatto Quotidiano scrisse, ma insomma, ma qua, cosa stiamo dicendo? Qui c'è un articolo, c'è stata una menzogna ripetuta, quindi una diffamazione, e quindi il dato di fatto è che va punita. È così oppure condivide qualcosa della battaglia che sta facendo Sallusti? Ovviamente non posso condividere nulla. Non può condividersi intanto un'affermazione proprio assurda, costituzionalmente inesistente. Chi giudica che le sentenze siano giuste o sbagliate esprime semplicemente un'opinione, ma le sentenze sono giuste per definizione nel momento in cui rispettano l'iter procedurale previsto dalla legge. Ha pochissima importanza che Sallusti e i suoi amici ritengano in piccola o in grande quantità che le sentenze prima della Corte d'Appello e poi della Cassazione siano sbagliate. Chi sono gli amici di Sallusti? Il popolo italiano e come tali vanno applicate e rispettate. Scusi, dottor Tinti, chi sono gli amici di Sallusti a cui lei fa riferimento? Amici sono tutti quelli, devo riconoscere una cosa che ha detto Sallusti, c'è stata una sollevazione molto numerosa a favore di Sallusti sui giornali, in politica e dei mass media in genere. Tutti, senza sapere ciò che dicevano, si sono schierati a favore di Sallusti, reo secondo loro di un semplice cosiddetto reato d'opinione, che non c'entra assolutamente nulla con ciò che ha fatto Sallusti. Il reato d'opinione è appunto esprimere un'opinione, mentire e ingiuriare non è un'opinione, quindi, è a seconda dei casi un'ingiuria o una diffamazione. Quindi il carcere secondo lei non fa una grinza in questo caso, perché è stata una menzogna, è stata una diffamazione, è stata un'ingiuria? Questa non è una domanda corretta da un punto di vista tecnico. Quello che non fa una grinza è la condanna. Poi che il giudice abbia stabilito di irrogare il carcere piuttosto che una pena pecuniaria, questo rientra nella discrezionalità che la legge attribuisce al giudice. Ripeto, in appello e in Cassazione hanno ritenuto che questa pena fosse corretta, non è né Sallusti del popolo italiano che può stabilire se invece ci andava una pena diversa. Sì. Questa è la legge e questa è la sentenza. Quindi lei contesta il fatto di dire, quando si dice ma insomma mandare in carcere un giornalista per un'opinione, qui lei dice non è un'opinione, è una diffamazione, cioè lei dice lo dice la sentenza, è una diffamazione, è un qualcosa di diverso. Sallusti vuole replicare a questo, perché spesso si dice non si devono mettere in carcere le opinioni, ma per molti non è così. Tinti è la prova dell'arroganza della magistratura che si sente investita di un potere divino. I magistrati sbagliano alla pari di qualsiasi essere umano. Non mi risulta che ci sia l'infallibilità dei magistrati. I magistrati sono degli esseri umani con i loro difetti, i loro pregi, le loro idee politiche, i loro rancori, le loro rabbie, le loro frustrazioni. Quindi non è che sono Dio i magistrati. Non capisco perché, anche se un chirurgo sbaglia deve pagare, un magistrato invece non deve pagare. Il magistrato non è infallibile. E Tinti dice anche una cosa falsa, perché io non vado in galera per diffamazione, perché in galera per diffamazione non si va. A parte che non ho diffamato io, e questo dovrebbe già essere un punto di buon senso, io sono accusato di... L'articolo è stato scritto da Renato Farino, ormai... Io sono accusato di omesso controllo, e non si manda in galera una persona per omesso controllo, mandi in galera suo figlio per omesso controllo, se vogliamo parlarci chiaro. La terza cosa è che, siccome non si va in galera nemmeno per omesso controllo, un magistrato in malafede mi ha appioppato la pericolosità sociale, cioè mi ha appioppato l'articolo, credo, 133. Ma perché lei dice malafede? Attenzione, perché se no ripartono nuove querele. Ma perché come se io e lei, siccome tutti i direttori italiani sono processati e spesso condannati per diffamazione, perché negli ultimi 50 anni soltanto a me, che non ho precedenti penali, viene applicato l'articolo 133 e guarda caso da un magistrato che ha militato prima nei movimenti di estrema sinistra e poi nella corrente di sinistra della magistratura italiana? È come se io e lei lasciamo tutte e due la macchina in divieto di sosta neppure davanti al passo Carraio. A lei danno 30 euro di multa, a me dicendo siccome quello lì probabilmente è un terrorista non gli do 30 euro di multa, lo prendo e lo arresto. Allora capisce che c'è qualcosa che non funziona in questa magistratura. Adesso ritorna insomma alla solita questione. Sallusti dice è stato un provvedimento punitivo, lo traduco io ecco con parole diverse, ma un provvedimento punitivo da parte di un magistrato in malafede che evidentemente ha voluto colpire una persona che politicamente la pensa in maniera diversa da lui. Ma guardi, Sallusti dice tutta una serie di cose non vere. Non è vero che è incensurato, mi risulta che abbia un lungo certificato penale per reati analoghi, cioè è stato già condannato altre volte. Ha un lungo certificato penale, la fedina penale com'è, Sallusti? Ho diverse condanne, mai penali nel senso di mai di diffamazione, di galera, sì. Per diffamazione, per omesso controllo, come tutti, ripeto, come qualsiasi direttore di quotidiano e però italiano. Tinti, lui dice io sono l'unico che adesso ha un provvedimento che tra 9 giorni mi manda in carcere. Ma, ripeto, anche questo fa parte di un atteggiamento disinformato. Certo che i magistrati possono sbagliare come tutti e la legge già prevede che i magistrati che sbagliano, ma sbagliano davvero, per esempio applicano una legge che non esiste, condannano una persona sulla base di una prova che negli atti non c'è, quello è un errore, ma ritenere che una persona sia colpevole e quindi irrogargli la pena stabilita dalla legge significa fare il lavoro del magistrato. Poi si capisce che l'imputato ce l'ha sempre con il suo giudice che lo condanna e quindi è ovvio che Sallusti, tra l'altro esponendosi di nuovo personalmente, perché è chiaro che se io fossi un giudice che ha condannato Sallusti e mi sentissi dire che l'ho fatto in mala fede, dovrebbe querelarlo. Ma devo dire, io non lo querelerei perché poi delle opinioni di Sallusti mi importa pochissimo, però questa è la prova della differenza che c'è tra la diffamazione e il reato d'opinione. Sì, secondo me io non meritavo il carcere, si può dire, la pena nei miei confronti ritengo sia sbagliata, è un'opinione, ma dire in malafede è una diffamazione, è un delinquente in malafede, quella è una diffamazione. Sallusti, su questo poi devo dare informazioni sul traffico, la differenza è la personalizzazione, cioè lei può criticare la sentenza ma dire questo giudice è in malafede è una cosa da querela. Ma io uso la logica, è un ragionamento, non può essere in buona fede una persona che mi ritiene socialmente pericoloso. Io non so se Tinti mi ritiene socialmente pericoloso e glielo chiedo, però sta di fatto che i giudici che hanno emesso le sentenze tortora, che mi sembra che la storia ha dimostrato essere state ingiuste, false, non sono stati buttati fuori a calci nel sedere della magistratura, sono diventati magistrati di Cassazione. Cioè questa giustizia non può andare avanti così. Secondo lei la sentenza Tortora era giusta o erano giudici in malafede? Allora siamo con Alessandro Sallusti, direttore del giornale, che tra 9 giorni dovrebbe andare in carcere per questa condanna a 14 mesi per diffamazione, anche se qui c'è un giallo, tra poco glielo chiederemo, sulla notifica della sentenza definitiva. Però Bruno Tinti, glielo chiedo così come gli ha chiesto in realtà Sallusti: secondo lei è verosimile considerare il direttore del giornale una persona socialmente pericolosa? Te lo dico fra un attimo. Credo che Sallusti abbia fornito l'argomento principale per far capire bene come stanno le cose. Lui ha citato la sentenza Tortora e ha detto: la storia ha dimostrato che Tortora era innocente. Quindi quei giudici che l'hanno condannato devono essere sbattuti fuori a calci nel sedere. O forse non andare in Cassazione, forse non essere promossi in Cassazione. Sì, quello che ha detto proprio dovrebbero essere cacciati a calci nel sedere. Ma comunque la storia non ha dimostrato niente. Tortora era un imputato condannato in primo grado e assolto in Cassazione, in appello e in Cassazione. Sallusti è un imputato che l'appello e la Cassazione hanno condannato. La storia processuale di Tortora ha dimostrato che era innocente, questo vuol certo, dire. E invece la storia processuale di Sallusti ha dimostrato che era colpevole. Praticamente Sallusti dice che le sentenze che assolvono sono giuste ed entrano nella storia, le sentenze che condannano sono sbagliate. Lui diceva, Sallusti diceva, quando il magistrato sbaglia processualmente, come nel caso Tortora, non paga, come diceva invece lei prima poco fa. Il magistrato la cui sentenza viene non confermata in Cassazione, non ha affatto sbagliato, ha fatto una sentenza che per ragioni di diritto la Cassazione ha ritenuto non conforme ai fatti, ma nessuno può dire se avevano ragione i giudici di primo grado o quelli di Cassazione. È una convenzione che la sentenza di Cassazione sia quella definitiva. Va bene, allora veniamo al punto, gliela rifaccio la domanda, così poi Sallusti, che l'ascolta, può replicare. È socialmente pericoloso, Sallusti? Bisogna intendersi sulla pericolosità sociale. Certo, Sallusti non rapina le banche, ma è uno dei cui precedenti dimostrano che questi reati li commette abitualmente. E allora il ragionamento del giudice è stato: continua a fare il giornalista, del resto il suo atteggiamento in questa trasmissione lo conferma, continua ad avere una certa modalità di fare il giornalista, e quindi secondo me lo mandiamo in carcere, commettere gli stessi reati a carico, a danno di altre persone. Sallusti vuole replicare su questo? Beh, voglio dire, anche un magistrato a cui per più di una volta vengono annullate le sentenze, allora è socialmente pericoloso, perché è un magistrato che continua a reiterare il reato di sbagliare le sentenze, e quindi non può più fare, perché a me viene imputato un errore, quindi allora una somma di errori porta alla pericolosità sociale, una somma di errori dei magistrati. Io le ricordo anche che Tortora è morto in seguito ai vostri errori, perché gli è venuto un tumore da stress proprio in seguito a questa sentenza. Cioè la giustizia ha sulla coscienza la vita di Tortora, non si è che possiamo scherzare su queste cose. Però, Sallusti, ma detto questo, allora lei mi deve spiegare, dottor Tinti, perché di fronte a una sentenza un magistrato, che immagino lei ritenga autorevole, come D'Ambrosio dice, Sallusti non andrà in carcere neanche se bussa, e perché la Procura di Milano non ha ancora mandato l'ordine di carcerazione. E le dico anche perché. Ecco, questo glielo volevo chiedere, perché c'è questo giallo, Sallusti, perché la Procura dice che l'ha spedita il 1 ottobre la notifica della sentenza. Cassazione. La Cassazione l'ha inviata alla Procura di Milano il 1 ottobre. Sì. La Procura di Milano la tiene nel cassetto. Le Ma dico perché? Io perché, dottore? Perché? Perché si vergogna. E perché il procuratore Bruti Liberati ha confidato a delle persone che io, Sallusti, non lo mando in carcere, neanche se me lo chiede Napoletano. Allora, perché una sentenza così questa avrebbe giusta, detto, avrebbe Sallusti, avrebbe detto il procuratore capo Bruti Liberati? Questo avrebbe detto il procuratore capo Bruti Liberati. Ma che vuol dire questa frase? Cioè, non lo mando in carcere? Ma vuol dire che si vergognano, a differenza di Tinti, si vergognano di venirmi a prendere quei carabinieri e mandarmi in carcere. Perché dei loro colleghi hanno commesso una ingiustizia, non è che hanno sbagliato. Hanno voluto scientemente dire che una somma di errori professionali porta alla pericolosità sociale. Cioè, detto questo, Tinti, ma lei se la vede la scena? Cioè, adesso obiettivamente, se la vede la scena tra 9 giorni, se c'è la notifica e tutto, effettivamente, che i carabinieri o le forze dell'ordine, insomma, vadano a prelevare il direttore del giornale per portarlo in carcere, dicono: senta, si presenta a San Vittore o dove deve andare. Cioè, se la immagina questa scena, come sarebbe anche dirompente, ovviamente in senso negativo, per il dibattito che c'è in Italia sul tema mai sopito politica, giustizia, Tinti? Io la trovo una cosa pazzesca discutere in questi termini come sta facendo Sallusti, certo che ce la vedo. Un giudice ha condannato una persona a una pena detentiva, la pena è definitiva, questa persona non si avvale, è una sua libera scelta, dei mezzi previsti dalla legge per essere ammesso a pene alternative, è ovvio che va in prigione, che c'è di strano. Ma ci vada lei alle pene alternative, dottore, ci vada lei alle pene alternative. Io non ho commesso ancora alcun reato. Ma questo è tutto da vedere, perché se il giudizio, il criterio per mandare in carcere uno e se è l'omesso controllo sul lavoro di altri, io credo che nella sua vita professionale dei suoi collaboratori abbiano sbagliato, oppure anche, sono perfetti anche i suoi collaboratori. Per cui ci vada lei alle pene alternative. Però Sallusti, questa è una cosa invece molto importante da sottolineare. Negli anni, io sono entrato in magistratura molto tempo fa, negli anni 70 e 80 c'era una giurisprudenza sugli infortuni sul lavoro per cui si condannava regolarmente il caposquadra, il caporeparto, quando si diceva, ma insomma qui il capo dello stabilimento o addirittura l'amministratore delegato hanno delle responsabilità, dovrebbero fare in modo che certi fatti non si verificano. Beh, allora questo era un discorso analogo a quello che fa Sallusti, ma sono errori, ma è impossibile controllare. Però la cosa che dice Sallusti è questa: c'è cioè un articolo che manco ho scritto io, ho fatto, l'ho messo controllo, appunto, è vero, è stato un errore. Che veniva detto da tutti i datori di lavoro negli anni 70 e 80. Finalmente si è elaborata la figura della posizione di garanzia, cioè la persona che occupa una certa posizione è responsabile, ha l'obbligo, non è un errore, ha l'obbligo di controllare. E per esempio, il capo dello stabilimento ha l'obbligo di ricevere tutti i giorni. Allora, ma è chiarissimo, quindi quello che per lei è un obbligo, un dovere, quello di controllare, perché altrimenti abbiamo capito, siccome ho 30 secondi, Sallusti. Io voglio seguire su questo piano, siccome ci sono delle sentenze, come dice lei, che le sentenze si rispettano, che condannano magistrati che hanno sbagliato, che risarciscono cittadini ingiustamente vittime di sentenze sbagliate, allora i procuratori capo della Repubblica di fronte a una cosa genere, cioè dovrebbero l'equivalente del direttore, dovrebbero essere arrestati. Sallusti, mi dica in 10 secondi, l'ha più sentito Farina, Renato Farina? No, non l'ho più sentito. Ma che ne pensa di lui? Ma penso che a me non porta bene, diciamo che a me porta un po' male, perché la mia vita professionale è costellata da problemi dovuti a Renato Farina, e quindi meglio per scaramanzia, meglio star lontani. Grazie, ci sentiamo domani alle 6:30. Mario Tassone, buongiorno onorevole. A lei, buongiorno. Ha già fatto i calcoli anche del vitalizio che le spetta dopo tante molto modesto, ma hanno detto 6.800 euro.